Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, come ricordavamo nel GR, un'altra giornata pesantissima per le borse europee. Mamma mia, adesso perde il 6,31% Milano, l'oro ha appena fatto un nuovo record a $1,782 l'oncia. Che cosa è successo? Perché la giornata era andata, come già purtroppo abbiamo visto altre volte, un copione già visto. Era iniziata bene a Milano, l'apertura in netto rialzo più 2,5%, e poi ancora le borse asiatiche avevano chiuso bene: Hong Kong più 2,34%, Tokyo più 1%, Francoforte aveva aperto anch'essa in rialzo più 2%, più 2% Parigi, e Londra più 1%. Poi iniziano a cedere e verso metà mattina sono intorno alla parità. Tra l'altro, l'asta dei bot in Italia è andata bene, poi la racconteremo, perché è un'asta oggi importante. I rendimenti sono scesi per i bot a un anno, buona la domanda, il doppio dell'offerta. Lo spread italiano sul Bund tedesco scende a 280 punti, praticamente identico a quello spagnolo, e buona la domanda dall'estero. Queste erano le notizie che avevamo fino a mezzogiorno. Poi iniziano a precipitare le cose. Perché? Perché questa volta i problemi arrivano dalla Francia. C'è stato un vertice questa mattina all'Eliseo, in cui si sono decise misure anche straordinarie per l'economia, nuove misure antideficit annunciate il 24 agosto. È arrivato un brutto dato sul utile della Commerzbank, banca tedesca. È crollato l'utile, meno 93%, pesano le esposizioni sulla Grecia, e tra l'altro viene fatto sapere che la banca ha ridotto anche la sua esposizione verso l'Italia del 10%, è a 15 miliardi di euro l'esposizione della Commerzbank verso l'Italia, e quindi sostanzialmente meno 10% vuol dire che ha comprato l'esposizione, si fa in larga parte con le obbligazioni, con i bot e i BTP, ha ridotto di 1,5 miliardi la sua esposizione. Ma fin qui, voglio dire, le notizie della mattinata. Sono iniziate ad arrivare dalla Francia voci sempre più insistenti di problemi grossi sul titolo Société Générale, che è una delle principali banche francesi. Problemi di liquidità. Smentite più volte, ma senza nessun effetto. Perché lo dico? Perché in questo momento Société Générale sta perdendo il 17%. In Francia è arrivata a perdere anche il 20%, malissimo Crédit Agricole e tutte le altre grandi banche francesi, perché non c'è solo Société Générale. BNP Paribas è arrivata a perdere il 13%, AXA il 10,5%, Crédit Agricole il 13%. Adesso vi do l'ultimo aggiornamento, meno 16% Crédit Agricole. Come vanno le cose in Italia? Malissimo, già lo dicevamo. Perché? Perché il ragionamento, intanto perché sull'indice di Milano le banche pesano più che su altri indici. Infatti Parigi perde il 4,81, Francoforte il 4,5, Londra perde il 2,70, noi perdiamo il 6,12%. Come se non bastasse, poi ha aperto l'America alle 15,30 ed è stata un'altra botta. Il Dow Jones perde il 3,80% in questo momento, il Nasdaq il 3,36%. Le banche italiane, raffica di sospensioni per strappi, per un brusco calo dei prezzi per tutte le banche, ma non solo. E adesso vi do l'aggiornamento ultimo. Intesa San Paolo perde il 13%, UbiBanca perde il 10%, Monte dei Paschi perde il 9,71% e Fondiera Sei il 9,60%, Prismian che fa cavi, ma insomma, perde il 9,60%, Unicredit il 9,33%, scusatemi, sotto l'euro per azione, 96 centesimi. Chiudiamo con le banche: meno 9% il Banco Popolare, meno 8,60% la Popolare di Milano, Mediolanum meno 7,80%, Generali meno 6,70%. Segnalo che va molto male anche Buzzi Unicem, quindi settore costruzioni, meno 9,30%, Fiat un nuovo tonfo, meno 8%, sia Fiat Auto che Fiat Industrial, quindi camion e trattori, e male gli energetici, meno 5,80% Enel e meno 4,60% Eni. Chi sta andando bene? Due titoli, Todds più 3,45%, Parmalat più 1,70%, ma se si guardano i migliori e i peggiori in assoluto, il peggior titolo è Credem, Credito Emiliano meno 13,60%, e poi c'è Intesa San Paolo, poi c'è Crédit Agricole che perde il 12,80%, e BNP Paribas, che è quotata anche in Italia, perde il 10% in questo momento in Italia. Non vi dico delle altre banche, ma insomma l'andamento è molto molto simile. Partiremo subito con questo e facciamo subito un bel gufo di esorcismo. Petrolio leggermente in rialzo, ma $81 al barile. Nel frattempo si è scoperto che Soros, George Soros, il multimiliardario di origine ungherese, quello che guadagnò miliardi scommettendo sull'uscita della lira dalla sterlina dallo SME nel 92, è tornato a colpire. Ha scommesso infatti sull'abbassamento di rating poi avvenuto degli Stati Uniti, lo davano 10-1, e ha guadagnato $1 miliardo con questa scommessa. Ora non è certo, però è molto sospetto che sia lui, visto che insomma, ci sono vari elementi, la decisione di chiudere il suo fondo investimenti e di agire in proprio per evitare le leggi americane, la vicinanza anche all'amministrazione Obama, insomma tutti sospettano che chi ha guadagnato $1 miliardo scommettendo che sarebbe stato abbassato il voto di giudizio sugli Stati Uniti sia proprio George Soros. Volete sapere qual è il rapporto che citavamo ieri tra il PIL mondiale e i derivati? È di 8 volte se aggiungiamo anche le obbligazioni e la borsa. Comunque il rapporto tra PIL mondiale e numero di derivati presenti è di 7 volte, vuol dire che ci sono 7 volte come valore contratti, futures, CDS e quant'altro rispetto a quello che tutto il mondo riesce a produrre in un anno. Barisoni si rende conto che sta creando il panico, si contenga. Bastasse questo, vi dico che tutto va bene. Veramente il panico si è creato in borsa nelle ultime 4 ore, troppa grazia. Fosse merito o demerito di Focus Economia, la faremmo facile, manderei un bel gallo e la borsa potrebbe recuperare. Vabbè, andiamo avanti, adesso ci colleghiamo con Parigi. Comunque gli indici qui sono ai minimi da fine marzo 2009, non si sgombrano e soprattutto non vengono rimosse le voci di un possibile taglio del voto sul debito francese, nonostante l'agenzia di rating Fitch abbia confermato la AAA, ma insomma Standard & Poor's e Moody's lo hanno appena confermato. Evidentemente qualcuno non è convinto, qualcuno specula sul fatto che anche la Francia possa avere un abbassamento di rating. Ricordo che la Francia comunque vive con la AAA, per cui con che volumi queste perdite? Sicuramente con volumi estivi, sia la Francia che la Germania che l'Italia chiaramente operano con volumi ridotti in questo periodo, però attenzione, non sono così estivi come al solito, cioè sono sicuramente volumi più bassi, adesso vedremo anche l'aggiornamento rispetto ai volumi che si registrano nel resto dell'anno, ma non così bassi come ad agosto, che vuol dire che parecchi operatori stanno smobilitando le posizioni. Poi ci occuperemo anche dell'incontro governo parti sociali, è appena uscita un'agenzia, Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria, ha detto il fronte delle parti sociali resta unito. Da quello che abbiamo capito, in sostanza Confindustria, banche, ABI, sindacati, commercianti, artigiani vogliono mantenere in sostanza la coesione per arrivare a una loro riforma del mercato del lavoro, e quindi sostanzialmente no grazie alla proposta del ministro Sacconi di arrivare a una riforma del mercato del lavoro, incluso diciamo l'articolo 18, comunque la flessibilità in uscita tramite decreto governativo. verrebbe percepito come un'imposizione dall'esterno, da quello che si è capito l'obiettivo è fare una riforma attraverso un tavolo tra le varie parti sociali, non diciamo attraverso una legge o un decreto governativo. 349-238-6666 per i vostri sms. Alcuni dicono, ma insomma sarebbe il caso di comprare, non diamo mai consigli sui titoli. Sicuramente le banche italiane stanno quotando a livelli di assoluto sconto, sotto i mezzi propri delle volte, però uno poteva fare lo stesso ragionamento tre giorni fa e oggi si sarebbe beccato le stesse banche in calo di nuovo del 10-12%, quindi massima attenzione. Dicevo, 349-238-6666 per i vostri sms. E allora partiamo con la crisi 2.0, come l'abbiamo battezzata, ed è un sistema internet, non Windows. Perché 2.0? Perché il double dip, la doppia recessione, è sempre più lo spauracchio dei mercati. Sono servite in Francia le smentite del Ministero dell'Economia, che ha formalmente smentito le voci di un possibile abbassamento del voto francese. Non sono servite le smentite del gruppo Société Générale, che appunto perde il 20%, cioè perdere il 20% vuol dire perdere un quinto del proprio valore in un giorno. Il mercato continua a temere che vi sia un problema di liquidità. Certo, il ragionamento è fatto sull'esposizione verso la Grecia dalle banche francesi, sono tra le più esposte in assoluto, 56 miliardi di euro, BNP Paribas a 5 miliardi, Société Générale 2 miliardi e mezzo, Crédit Agricole a circa 3 miliardi. Però, ed è la domanda che voglio girare a Marco Musanet, corrispondente per il Sole 24 Ore da Parigi. Marco, buonasera. Buonasera a voi. Insomma, lo sappiamo da mesi che la Francia era esposta verso la Grecia, perché oggi questa accelerazione? Marco. Ma mi sembra che ci siano due elementi che pesano in questo momento sul mercato, due rumors in realtà. Uno è quello insistente sul rischio di un downgrade francese con la perdita della AAA, nonostante le ripetute smentite delle agenzie di rating e del Ministero dell'Economia. L'altro è possibile prolungamento dal 2020 al 2024 del rimborso del debito greco nei confronti dei creditori privati, e nello specifico di Société Générale ci sono delle voci che sono ribalzate in realtà da Londra su una crisi di liquidità della banca con la cessione di riserve in oro. Va detto che se è vero che Société Générale è arrivata a perdere un pochino più del 20%, le altre banche francesi, le altre grandi banche francesi non sono comportate molto meglio. In questo momento Société sta perdendo circa il 16, l'Agricole circa il 14 e BNP circa l'11, quindi insomma in realtà sono tutte le banche francesi che sono nel mirino. Mi sembra che un elemento forte sia appunto quello della loro esposizione, certo sui titoli greci, ma a cascata ovviamente sui titoli spagnoli e italiani. Eh sì, abbiamo visto Commerzbank, oggi colosso bancario tedesco, avere un crollo degli utili nel terzo trimestre, secondo trimestre, scusatemi, dell'anno, meno 93%, e soprattutto per la sua esposizione nei confronti delle obbligazioni greche, e tra l'altro ha ridotto anche la sua esposizione verso l'Italia, è scesa di 1,5 miliardi quasi a 15 miliardi di euro. Marco Musanet, mentre ringrazio per averci raggiunto in collegamento anche il direttore investimenti di Schroders Italia, Mario Sprafico. Buonasera Sprafico, molto gettonato in questi giorni, Sprafico. Adesso arriviamo anche da lei. Però Marco Musanet, questa mattina il vertice all'Eliseo con Sarkozy, che è rientrato, insomma, doveva rassicurare i mercati, ha indetto una riunione straordinaria, ha annunciato nuove misure antideficit il 24 agosto. Lo spread, per carità, lo spread francese con i titoli tedeschi è aumentato, era a luglio 37 punti, a inizio agosto 69, adesso è 85, ma nulla a che vedere con l'Italia, anche se anche l'Italia partiva da 85 a maggio-giugno. Come mai nessun effetto delle parole di Sarkozy, Marco? Ma intanto solo una messa a fuoco sul tema del debito sovrano francese. Cioè, è vero che i CDS sono andati a 163, lo spread tra gli OAT e i Bund è adesso intorno a 90 punti base, però è anche vero che i rendimenti dei titoli francesi sono in realtà scesi di circa 12 punti base. Quindi, come dire, la situazione su quel fronte non mi sembra francamente molto cambiata rispetto ai giorni scorsi. Sul fronte dell'iniziativa di Sarkozy, sai, quelle sono come al solito iniziative, sono delle armi a doppio taglio, cioè nel senso che da un lato servono teoricamente per assicurare il mercato, si ribadiscono gli impegni, dall'altro danno il senso, come dire, della gravità della situazione. Quindi, come al solito, in una situazione di mercato normale sono iniziative rassicuranti. In una situazione di mercato molto volatile, molto nervosa, molto incerta come l'attuale, probabilmente ha fatto premio la paura di una situazione così difficile, così problematica da imporre una riunione d'emergenza in pieno agosto. E qui paradossalmente si ripete, mutatis mutandis, il copione che abbiamo visto quando Berlusconi ha parlato alla Camera e quando Barack Obama ha parlato due giorni fa in televisione, e cioè arrivano le dichiarazioni dei capi di governo e invece che tranquillizzare i mercati li abbattono. Non è chiaro che la battuta è meglio stare zitti a questo punto, però hai ragione nel ricordare che quando si vuole vedere nero anche un vertice straordinario, quindi l'impegno della politica, Sarkozy che rientra dalle vacanze e annuncia misure antideficit entro il 24 agosto, vengono visti come una conferma della situazione negativa e non come, diciamo, il bicchiere mezzo pieno di una politica che prende responsabilmente atto della situazione. Sì, in più c'è un'altra considerazione da fare. Cioè, si è molto criticato l'intervento di Berlusconi in Parlamento perché era un intervento di annuncio e non di contenuti. Va detto che anche il comunicato dell'Elisio di stamattina è un comunicato di annunci e non di contenuti, nel senso che sono stati ribaditi gli impegni, certo, ma non sono state annunciate le misure. Saranno annunciati il 24 agosto, ma il 24 agosto, cioè 15 giorni per la situazione di mercato che stiamo vivendo in questi giorni, è una quantità di tempo pazzesca. No, anche perché se perdi il 15% in un giorno, voglio dire... Adesso non ci vuole un matematico per capire che in due settimane di borsa, adesso nessuno può immaginare che i titoli continuino a calare del 10-15% al giorno, però attenzione, rischi di arrivare a titoli che valgono la metà di quando hai fatto l'annuncio. Devo dire che non solo Berlusconi ha fatto solo annunci, anche Barack Obama ha fatto un discorso, detto per inciso, di annunci, detto l'America da tripla A, sì, proprio non ha spiegato come si uscirà dalla situazione di rischio di nuova recessione senza le armi che si avevano nel 2008, e anche la Federal Reserve ieri, tenendo i tassi invariati, non è che abbia detto granché più che dire siamo pronti a nuove misure. Resta con noi, se poi ancora un secondo, Marco Mussanè, perché vorrei capire che cosa ha visto chi è al lavoro, come noi, come te, in sala operativa. Mario Sprefico, allora, che cosa è successo oggi? Perché noi le agenzie le vediamo i movimenti, ma tutto è cambiato intorno alle 11 a mezzogiorno, dopo che i mercati erano positivi, positiva la Francia, positiva l'Italia, oltre il 2%, l'asta sui bot italiani è andata bene, buona la domanda, rendimenti in calo, e allora? Effettivamente questa è una domanda molto difficile, perché anche noi ci chiediamo veramente perché si può dare 2000 spiegazioni a quello che sta avvenendo, ma in realtà sono troppe le spiegazioni che vengono date e nessuna è convincente, cioè nel senso che io obiettivamente mi sono chiesto, quando questa mattina ho visto la più grossa banca quotata in Italia che aveva scambiato, la prima dell'indice, scambiato 100 milioni di titoli nella prima ora di contrattazione, cosa che è stato un segnale secondo me abbastanza inquietante. Lei si riferisce a Unicredit o Intesa? A Unicredit. Mi riferisco. E in questo caso mi sono chiesto veramente cosa poteva succedere durante la giornata, e poi effettivamente qualcosa, senza capirne la direzione, è successo. Ora, io credo che qui veramente è molto difficile dare una spiegazione, credo che ci sia veramente un problema legato a dei riposizionamenti generali, degli squilibri generali a livello di investimenti azionari, ma a livello mondiale. Ora, chi vende un titolo come Unicredit a questi livelli, secondo me, ha, come dire, delle valutazioni abbastanza incoscienti, perché assolutamente non è da vendere a questi livelli, parlo da un investitore professionale. Quindi io non so con che criteri vengono utilizzati in questo momento, vengono prese delle decisioni di investimento. Mi scusi, Intesa San Paolo sta perdendo il 12,5%, Unicredit all'8,40, UbiBanca al 9,80. Allora, Intesa San Paolo, lei citava Unicredit giustamente, ma anche Intesa vale 1,15 euro. Cioè, adesso io non ho sotto mano e a mente i mezzi propri, ma insomma, a spanne direi che quota meno dei mezzi propri fra un po'. Quasi la metà dei mezzi propri. La metà dei mezzi propri, figurabile. E quindi è per questo che dico, è molto difficile dare una spiegazione. Io credo che sia abbastanza incosciente vendere queste banche a questi livelli. Però probabilmente chi lo fa ha delle spiegazioni che per noi sono, io non credo a un'intelligenza superiore in questo tipo di mercati, ma però obiettivamente credo che chi lo fa con una, io lo credo con un razionale, e devo dire che anche noi operatori professionali ci piacerebbe capirlo, perché obiettivamente... Cioè, Intesa ha perso metà del suo valore, valeva a fine febbraio 2,28 euro, adesso è 1,15 euro, la metà, non è successo niente, diciamo, ma vale la metà. No, credo che, guarda, io nel complesso dalla mia esperienza vedo che solo esclusivamente questo è una conseguenza ancora con tutto quello che sta succedendo del 2008, non c'è dubbio. C'è un grosso squilibrio di capitali, non è vero che non c'è liquidità nel mercato, forse il problema è perché ce n'è ancora tanta. E c'è un grosso squilibrio dei riposizionamenti finanziari in tutto il mondo. Fino a due anni fa, nel 2008, quando crollavano le banche e le obbligazioni corporate, quindi nessuno voleva più il credito e le azioni, e tutti compravano titoli di Stato, addirittura i bond greci, i titoli di Stato greci rendevano il 2%, dopodiché c'è stata la corsa a comprare di tutto al di fuori dei titoli di Stato, perché non rendevano niente, quindi tutti volevano comprare obbligazioni corporate, yield e tutto. E qui si sta facendo un po' i conti probabilmente con questo, con degli assorbimenti squilibrati di liquidità in alcuni comparti rispetto ad altri. E questo probabilmente è l'effetto che sta avvenendo anche sulle banche. Citava lei prima il tema dei derivati. È stato più volte promesso dopo il 2008 in sede di regolamento internazionale di affrontare questo tema di regolamentazione, ma soprattutto di trasparenza, e questo non è avvenuto, e quindi credo che ne stiamo pagando le conseguenze. Allora sì, qui faremo anche un ragionamento appena riusciamo a respirare, perché non voglio fare il facile profeta, però è anni che con i nostri ospiti commentiamo le mancate riforme americane su Wall Street, quando Obama aveva la forza per farle, le mancate riforme europee su derivati, vente allo scoperto, strumenti altamente speculativi, sempre tentennamenti, le banche sono importanti anche in Europa, i banchieri sono importanti anche in Europa. Adesso vedo un flash di agenzia che vi leggo in diretta, i consigli ministri del 18 nel Consiglio dei Ministri il 18 agosto vi sarà il disegno di legge con le misure nuove anticrisi, un flash d'agenzia appena battuto. Vedo subito se il mercato ne prende atto, ma no, perde il 6% Milano, che è la peggiore, ma Parigi perde il 5,30, ormai in chiusura, ha perso il 5,30 a Parigi, il 5,20 Francoforte, il 2,40 Londra, l'America perde il 3,90%. Vi do anche l'ultimo aggiornamento sul Dow Jones, sul Nasdaq, che perde il 3,40%. Andiamo bene, proprio bene. La nostra sorellella per sdrammatizzare, Marco Mussanè. Hai sentito il ragionamento di chi è al lavoro nelle sale operative e non si capacita di movimenti così alti? Se ho ben capito, quello che dice Sprafico è: le banche si sono riempite di obbligazioni nell'ultimo tempo dei vari paesi, Grecia, Italia, così, perché i rendimenti erano interessanti, adesso le stanno smobilizzando. Che cosa ti aspetti come reazione della politica? Perché io non so, Sarkozy, cosa possa fare ancora di più. Tornare in vacanza, forse, non lo so. Beh, io francamente penso che a meno che domani ci sia un altro, domani, nei prossimi giorni, cioè, a meno che la settimana vada nella stessa direzione di oggi, io penso che la politica per il momento, come dire, ha fatto quello che doveva fare. La speranza è che, come dire, il messaggio venga compreso dal mercato. Il problema è che c'è uno scollamento evidente tra i tempi della politica e i tempi dei mercati. E quindi, come dire, molto più di questo non può fare però la politica. Certo, quello che potrebbe fare la Francia è anticipare ulteriormente alla prossima settimana l'annuncio concreto delle misure, può anticipare dal 6 ottobre alla prossima settimana con un rientro dalle vacanze dei parlamentari l'approvazione dell'accordo del 21 luglio di Bruxelles. Però, ecco, come al solito siamo di nuovo lì, questo però è un ulteriore elemento che può in realtà creare paure sul mercato. Quello che può fare la politica, ecco, è come dire, continuare a dare l'impressione di inseguire gli eventi, e cioè correre al riparo quando il problema in realtà è già emerso. Quello che può fare è decidere una volta per tutte di come dire, fare un passo più avanti e annunciare misure reali, cioè prendere misure reali molto efficaci, dotare il Fondo di Stabilità Europeo di risorse più ampie rispetto a quelle di cui sarà dotato secondo l'accordo del 21 luglio e soprattutto finalmente, come dire, dare un segnale preciso sulla governance economica della zona euro per evitare che ciascuno vada per la sua strada e che la Germania continui a trasmettere dei messaggi contraddittori rispetto alle decisioni che poi vengono prese a livello europeo. Sì, anche la Germania deve stare attenta perché è due volte in tre giorni che perde il 5% della borsa tedesca, quindi nessuno escluso, potremmo dire. Grazie a Marco Musonei. Mario Sprefico, resti con noi ancora per 2-3 minuti perché ho molte domande che arrivano al 349-238-6666. Intanto su quello che lei ha detto, cioè che è quasi da pazzi, diciamo, vendere banche come quelle che lei citava, ma in generale a questi prezzi, perdendoci probabilmente. Però le domande sono: chi ci guadagna? Perché quando qualcuno vende, qualcuno ci guadagna. E se bloccare vendere allo scoperto, i derivati è un po' più difficile, ma vendere allo scoperto servirebbe a rendere meno volatile il mercato. La risposta dopo il metodo e la pubblicità: 349-238-6666 per i vostri sms. Venduto derivati, oltre ai subprime, swap, future, qualunque spazzatura. Sapevano che l'illusione dei mutui avrebbe fatto crollare il mercato. E quando il crollo si è avverato, si sono fatti comprare i titoli tossici dal governo senza perdere un dollaro. Questo è l'impero del male, io ero un dilettante. Io sono una mezza tacca rispetto a loro, ragazzo. Il sistema è insolvente, nessuno sa cosa fare dopo, eccetto ripetere la follia fino a che non scoppia la prossima bolla. E sarà quella vera, quella grossa. Come la storia dei tulipani, ricordi? Allora, la peggiore chiusura di borsa che io ricordi per Milano, anche peggio della settimana scorsa, meno 6,65% nel finale, meno 5,45% Parigi, meno 5,15% Francoforte, e l'America sta perdendo il 4%. Tra l'altro la chiusura finale di Intesa San Paolo è meno 13,70%, UbiBanca meno 10,17%, Monte dei Paschi meno 9,80%, Unicredito meno 9,40%, Banco Popolare meno 9,40%, Popolare di Milano meno 8,90%. Nuovo record dell'oro, 1782 dollari l'oncia. Mario Sprefico, direttore della parte investimenti di Schroders Bank, Schroders Italia. Molti ci chiedono, ma insomma, bloccare i derivati non mi sembra possibile, anche se valgono 7 volte il PIL mondiale in questo momento. Bloccare le vendite allo scoperto, sì. Faccio solo notare una cosa, che la Consob si è riunita oggi, la Consob è l'autorità di vigilanza italiana sul mercato, per vedere cosa sta capitando in borsa. E a quanto si apprende, lo riporta l'Ansa, le posizioni scoperte, cioè chi vende senza avere titolo, sono limitate, dice, limiti fisiologici, comunque non si evidenziano, diciamo, particolari elementi patologici. Allora, Sprezzico condivide questa analisi, servirebbe bloccare l'evento allo scoperto e soprattutto chi ci sta guadagnando? Ma dunque, io condivido questa analisi di Consob, perché credo che qui il punto, come dicevo, non è solo un problema di tema di vendita allo scoperto, che secondo me sono sostanzialmente limitate in queste fasi, ma sono effettivamente dei grossissimi riposizionamenti a livello internazionale, dove possono essere complici anche i derivati, ma solo perché si sta gestendo il sottostante, cioè quindi mi riferisco al titolo fisico. Questo, allora, il punto non è tanto pensare di bloccare le vendite allo scoperto, ma veramente porre in essere una regolamentazione di trasparenza per quanto riguarda le trattazioni e contrattazioni sui derivati. Questo non riguarda solo il mercato azionario, che forse è anche più facile da prevedere da un punto di vista di o meglio da capire da un punto di vista di negoziazione, anche perché la maggior parte del titolo fisico è quotato in borsa e quindi i derivati si muovono anche sulla base di quello. Riguarda molto tutto ciò che sta là, ad esempio il mercato dei credit default swap e tutto ciò che può avere una influenza indiretta sul mercato azionario. Credo comunque tuttavia che questi movimenti di questi giorni, come ripeto, sono un riposizionamento a livello generale e che il problema sia ben più profondo e nasce dal passato. Sì, ma che cosa, Sprefico? Cioè, ho capito, le banche, gli investitori, i fondi pensioni, i fondi speculativi avevano troppe obbligazioni, tradotto, se ho ben capito, avevano troppe obbligazioni italiane, greche, spagnole, perché erano comprate, perché rendevano, e adesso stanno smobilitando le posizioni. Oggi Commerzbank l'ha detto, Deutsche Bank l'ha detto la settimana scorsa, e vabbè, ma perché? Cioè, voglio dire, uno smobilita, l'asta dei bot italiani oggi è andata bene, insomma, non so. Guarda, io credo che questo smobilizzare delle posizioni dei singoli paesi riguarda un po' una classica movimento di rimpatrio di capitali, cioè in poche parole un investitore americano esce per riportare a casa i soldi, qui o un investitore tedesco o inglese, chiaramente colpisce quei portafogli di questi investitori molto grandi che hanno degli effetti molto forti sul nostro mercato. Il vero punto è che non esiste un effetto ammortizzatore, non c'è un altro soggetto che riesce a compensare queste uscite, pur uscendo a livelli assolutamente assurdi, come facciamo l'esempio delle banche italiane. Quindi il problema si traduce anche in un problema proprio, come dicevo, di squilibrio. Quindi vendere in questo momento è sbagliato. Però obiettivamente probabilmente questi movimenti di capitali dovuti all'eccesso di liquidità possono eventualmente anche continuare. Sì, c'è chi fa notare che UniCredit è sceso fino a 0,60 nello scoppio della crisi, ho capito, siamo a 97 centesimi, ma lì a 96 centesimi lì c'era la chiusura, il crollo, il fallimento di Lehman Brothers, il salvataggio da centinaia di miliardi di dollari, 1200 miliardi delle varie banche e compagnie assicurative americane, i mutui americani che crollavano, cioè, voglio dire, non è che aveva un senso. La cosa sorprendente, Sprefico, è che qui c'è molto meno senso. Tra l'altro, proprio le banche italiane hanno fatto importanti aumenti di capitale in primavera, solo Intesa 5 miliardi, per posizionarsi su un rapporto mezzi propri prestiti adeguato, no? il Core Tier 1, come nulla serve più, cioè, tutte cose che abbiamo studiato, abbiamo raccontato, 10 anni di programma buttati nel cesso, così. No, ma è proprio quello che dicevo, è veramente un fenomeno inspiegabile, ma io parto su un tema più complesso, quello di come si sono posizionati gli investimenti in questi ultimi anni dopo la crisi Lehman. Cioè, quello che intendevo dire prima è che le banche nel corso del 2008, gli investitori internazionali, le grosse banche che hanno svuotato i portafogli, ma anche gli investitori internazionali, compravano nel 2008 fino alla metà e quasi forse alla fine del 2009 solo esclusivamente titoli di Stato. Quello era il cosiddetto safe haven, cioè quindi il paradiso sicuro di qualsiasi mercato, soprattutto nei mercati principali, addirittura della Grecia, che quotavano sotto il 3% i decennali all'inizio del 2009. Dopodiché c'è stato un ammontare enorme, spostamento di flussi sul mondo dei corporate, quindi il credito verso le imprese. Questo ha generato chiaramente un vantaggio competitivo di quel tipo di rendimento rispetto ai debiti degli stati. Questo ha creato un forte squilibrio dei portafogli e io credo che questa sia un po' la conseguenza. Infatti nessuno ne parla, ma il mercato dei corporate bond è veramente in grossa difficoltà, pressione in questo momento. Sì, come sempre, però Sprefico, queste cose arrivano sempre a Ferragosto. Cioè, no, voglio dire, l'esposizione delle banche francesi verso la Grecia la conosciamo da un anno. Esatto. il fatto che le banche o i fondi si fossero riempiti di obbligazioni greche, portoghesi, spagnole, italiane, lo sappiamo da un anno. La gente va in vacanza e poi ti arriva la mazzata, perché il mercato, è vero che i volumi sono alti rispetto al solito, però comunque molti operatori piccoli sono in ferie, per cui è quello che così tutto capita quando la gente è al mare sotto l'ombrellone. C'è un film che arriverà in Italia il 7 settembre, di cui parleremo più avanti, però che si chiama The Inside Job, ha vinto l'Oscar come miglior documentario quest'anno, e racconta benissimo, a mio avviso, come si è arrivati a questa situazione di isteria e collasso collettivo, e anche le colpe, quelle di Bush sono chiare, ne parleremo, ma anche le colpe di Obama. Quando diciamo da mesi che Obama ha perso l'occasione, quando le banche americane erano col cappello in mano, per riformare Wall Street, perché si è fidato di Timothy Geithner, il suo ministro dell'economia, che viene da lì e lì probabilmente tornerà. Beh, sentite questo passaggio di questo film, che appunto in Italia esce il 7 settembre, The Inside Job. L'era dell'avidità e dell'irresponsabilità di Wall Street e di Washington ci ha portato alla crisi finanziaria più grave mai avuta dalla Grande Depressione. Quando arrivò la crisi, poco prima delle elezioni del 2008, Barack Obama evidenziò come i fallimenti di Wall Street fossero degli esempi per il bisogno di cambiamento in America. La negligenza di Washington e di Wall Street è ciò che ci ha condotto a questo disastro. Dopo essere stato eletto, il presidente Obama parlò di riforme dell'industria finanziaria. Vogliamo un regolatore di rischi e dei requisiti patrimoniali. Abbiamo bisogno di proteggere i consumatori. Cambierò la cultura di Wall Street. Ma quando le riforme vennero messe in atto nella metà del 2010, si rivelarono deboli. E per alcune aree critiche, come le agenzie di rating, le compensazioni e il lobbying, non fu proposto niente di significativo. Obama scelse Timothy Geithner come segretario al tesoro. Geithner era il presidente della New York Federal Reserve durante la crisi e una delle persone chiave nel decidere di pagare la Goldman Sachs per le sue scommesse contro i mutui. Come nuovo presidente della Federal Reserve fu eletto William C. Dudley, ex capo economista della Goldman Sachs e coautore di un articolo che lodava i derivati. Capo del personale Mark Patterson, un ex lobbista per la Goldman. Come senior advisor fu scelto Lewis Sachs, un sovrintendente della Tricadia, una compagnia coinvolta pesantemente nelle scommesse contro le azioni dei mutui che vendeva. A guidare la Commodity Futures Trading Commission, Obama pose Gary Gensler, un ex dirigente della Goldman Sachs, che aiutò ad abolire la regolarizzazione dei derivati. Come capo della commissione per i titoli e gli scambi, Mary Shapiro, ex amministratore delegato della FINRA, il corpo di autoregolamentazione dell'industria bancaria di investimento. Il capo dello staff di Obama, Rahm Emanuel, guadagnò $320,000 nel consiglio della Freddie Mac. Sia Martin Feldstein che Laura Tyson sono membri del consiglio consultivo della ripresa economica. E il capo consulente economico di Obama è Larry Summers. E sarà anche un sospetto, ma gli stessi uomini che avevano ruoli chiave nel creare la finanza derivata e deviata sono i migliori consiglieri economici, compreso il ministro dell'economia, di Barack Obama. Difficile che il tacchino anticipi il Natale, Sprefico? È molto difficile. E adesso ridiamo ma amaro e ne paghiamo le conseguenze. Forse bisogna metterci mano nel 2009 e anche in Europa. Comunque, grazie a lei, buon lavoro. Mi rendo grazie conto che è difficile il traffico, poi parliamo dell'incontro governo sindacati che è ancora in corso. 349-238-6666 per i vostri sms. Il DVD che esce il 7 settembre, non il film, del film, si chiama Inside Job. Torneremo a parlare perché c'è anche tutta la costruzione di questo castello di finanza derivata e deviata da parte dell'amministrazione Bush. Traffico. Avete ragione, il tacchino si mangia la festa del ringraziamento, per carità. Diciamo, è difficile che il tacchino anticipi la festa del ringraziamento, si dice in americano, però il primo film che abbiamo fatto sentire era il mitico Gordon Gekko, che ormai si considera fuori dai giochi in Wall Street 2. Torneremo a parlare di Italian Job. Adesso vorrei invece cambiare tema e parlare dell'incontro che è ancora in corso tra governo e sindacati. È arrivato un flash: il Consiglio dei Ministri il 18 agosto avrà il disegno di legge con le misure anticrisi. Il ministro Monti ha detto che occorre ristrutturare tutta la manovra. Il deficit all'1,5% nel 2012, il pareggio arriverà nel 2013. E mentre siamo in attesa di capire che cosa proporrà il governo alle parti sociali, c'è appunto la dichiarazione di Emma Marcegaglia che dice: insomma, le parti sociali noi agiremo come fronte unico, numerose le ipotesi sul tappeto: la parte previdenziale e assistenziale, innalzamento della pensione, la parte patrimonio risparmi, patrimoniale sulle ricchezze più alte immobiliari. Siamo in collegamento con il presidente di Confindustria Veneto, Andrea Tomat. Buonasera. Buonasera agli ascoltatori. Allora, in questa giornata di nuovo pesantissima per le borse e per i titoli anche italiani, è chiaro che insomma questa crisi sarà pure un attacco speculativo, saranno i rischi di recessione o di stagnazione economica negli Stati Uniti, tutto dell'esposizione verso la Grecia e il Portogallo, ma insomma non vi sono segnali di un miglioramento. Quindi non ci si può aspettare che da domani i mercati riprendano a correre, che aumenti la capitalizzazione dei titoli in borsa, che nonostante le buone notizie sul bot di oggi, che vi sia in qualche modo minor pressione sui debiti dei paesi. Che cosa chiedete voi come industriali, che vi siete appunto presentati con un fronte compatto con le banche, con il mondo del commercio, dell'artigianato e dei sindacati? Ma io credo che questa debba essere l'occasione per mettere davvero le mani ad alcuni cambiamenti che da tempo discutiamo, vengono promessi o sono posti all'ordine del giorno anche degli interventi dei vari governi che si sono succeduti per intervenire su quegli elementi che consideriamo ancora come, diciamo, dei vincoli alla crescita e allo sviluppo e ai costi e all'equilibrio di questo paese. Credo che le proposte appunto sventagliate siano diverse. Io metterei da un lato quelle che, come dire, tendono a fare cassa, quindi a toccare aspetti di prelievo, a ridistribuire risorse da una parte all'altra, saranno necessari perché evidentemente l'intervento da fare per ridurre il debito e quindi poi nei flussi di interessi futuri è indispensabile in questo momento, ma sono ancora più importanti gli interventi, diciamo, su quelli che possono essere considerati vincoli o barriere alla crescita. Da un lato c'è sicuramente questa proposta di riforma dei contratti di lavoro, è un'apertura molto forte che il governo fa. Credo che peraltro oggi in questa fase sia necessaria mantenere una forte coesione sociale e quindi io penso che questo sia un intervento da fare rapidamente, però al tavolo delle due controparti, quindi da un lato i Confindustria, i rappresentanti dei datori di lavoro e dall'altro i sindacati, con un impegno peraltro preciso, perché il mercato ha bisogno di avere tempi certi, di raggiungere un accordo sostanziale in brevissimo tempo. Credo che da qui a settembre al massimo si debba, a fine settembre si debba raggiungere un accordo importante che tocca punti sensibili nella flessibilizzazione del mondo del lavoro, punti che devono in qualche modo portare ad aprire maggiormente le opportunità per i giovani e a evitare, diciamo, eccessive tutele per i quadri, per le forze di lavoro attualmente impiegate, sia nel pubblico che nel privato. Allora, lei diceva, insomma, il mercato del lavoro, non solo, ma anche il mercato del lavoro. C'è stata, è inutile girarci attorno, anche alle vostre assise di Bergamo è arrivata una richiesta al mondo delle imprese di rivedere un tema che è diventato poi tabù, sappiamo tutti la vicenda che ha portato anche alla morte di Marco Biagi, ma insomma il tema dell'articolo 18, cioè maggiore flessibilità anche in uscita, a patto poi di avere anche una maggiore flessibilità in entrata e quindi assunzione del mondo dei giovani. Il ministro Sacconi ha proposto di intervenire con un decreto del governo. Lì, insomma, il rischio è che il decreto venga visto un po' come una forzatura in un momento di coesione tra sindacati, tutti, dico anche la CGIL, Confindustria e l'ABI. Secondo lei la soluzione migliore sarebbe arrivarci per decreto o con un cosiddetto tavolo delle parti sociali in cui magari mediando, cedendo un po' da una parte, un po' dall'altra, ma si arrivi a un accordo, diciamo, non imposto dall'alto al governo, ma frutto di una trattativa tra voi e i sindacati. È sicuramente preferibile un tavolo dove le parti si incontrano e trovano un accordo tra di loro. In questo momento c'è bisogno di dare e di responsabilizzare, dare responsabilità alle parti sociali. L'intervento per decreto potrebbe essere visto come un'imposizione su una componente ovviamente fondamentale della società italiana e anche delle attività industriali, e io quindi da questo punto di vista auspico un impegno peraltro forte, formale, di tutte le componenti, incluse la CGIL, per arrivare ad un accordo in tempi molto ma molto rapidi. Per quello che riguarda gli altri tagli, si citano molto i costi della politica, le pensioni. Allora, sulle pensioni la vostra posizione qual è? E anche però sui tagli, voglio dire, per costi della politica... Sul tema dei costi della politica credo che invece dobbiamo, come dire, mettere al primo punto dell'agenda questo aspetto. Non tanto e non solo per una componente, voglio dire, di risparmio, che pure alla fine si rivelerà, secondo me, molto più importante, o si potrebbe rivelare molto più importante di quello che appaia all'inizio, ma soprattutto per l'effetto simbolico. Qui ci vuole un segnale forte proprio da chi conduce il paese per dire rinunciamo a delle prebende che sono in eccesso, ma soprattutto riduciamo questa eccessiva rappresentanza, questo costo della rappresentanza, e quindi qui parlo non solo della parte centrale del governo, del Parlamento, ma anche e direi soprattutto di tutti gli aspetti che riguardano i comuni sotto una certa soglia di abitanti, il tema delle province e delle regioni. Dobbiamo pensare a formule che consentano di dimezzare l'insieme della rappresentanza politica. Oggi il Paese deve fare con molto di meno, e sicuramente con molto di meno faremo molto meglio. C'è poi il tema delle pensioni. Io credo che vada in qualche modo, dobbiamo riallineare quanto oggi non è coerente con il forte allungamento della vita media, con condizioni di vita che portano, e questo è un aspetto positivo, molte più persone a vivere molto più a lungo, ma per fare questo dobbiamo sicuramente pensare di allungare la durata media in attività delle persone. Io sotto questo profilo, sempre sul piano del lavoro, vorrei aggiungere anche un'altra cosa che a mio avviso con un piccolo intervento, magari momentaneo, non so, programmato per 5 anni, 10 anni, ridurre il numero delle festività annuali. Io penso che se potessimo ipotizzare di ridurre di qualche giorno, 3, 4, 5 giorni, le festività annuali, questo avrebbe un impatto significativo anche sulla produttività in termini molto immediati e molto percepiti anche dai mercati. Allora, prego. No, vorrei aggiungere che evidentemente sotto questo profilo si capisce molto bene che nel rapporto di lavoro possiamo trovare degli aspetti particolarmente significativi. Qui poi possiamo aggiungere, evidentemente si è parlato di patrimoniale. Ecco, lì volevo arrivare. Date. Esatto, ci deve essere una sorta di scambio fra le varie parti sociali, una cosa con l'altra. È chiaro che la patrimoniale o comunque diciamo dei prelievi sulle seconde case, sugli asset vanno in qualche modo mirati, cercando di non pregiudicare le attività economiche. È chiaro questo, quindi le dice uno scambio capitale-lavoro in cui si innalzi l'età pensionabile, ci sia però anche una patrimoniale. Grazie Andrea Tomat, siamo veramente in chiusura, lascio la linea al GR. Da Sebastiano Bresioni del Gudino, buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.